La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, allora di cinema settimanale qui su Radio 24, La Rosa Purpurea, una settimana che vede arrivare in sala i primi sprazzi di cinema grande in termini anche di attesa del pubblico, ovviamente non sono mai valutazioni to cure per quanto riguarda la qualità dei film, in questo caso anche divertenti comunque, e quindi ci introduce un po' nella nuova stagione cinematografica. Settimana prossima poi vi parleremo anche in maniera più approfondita del Festival di Venezia, che starà per cominciare, comincia esattamente il 29 agosto. Quest'anno c'è partenza un po' anticipata per un effetto puramente di stagionalità, e quindi insomma la nuova stagione fa sentire i suoi primi rulli di tamburo, che in questo caso ci riportano un cartoon molto molto amato come Madagascar, e un attore che insomma ci ha regalato sicuramente icone della storia del cinema come Sylvester Stallone con i suoi nuovi mercenari Expendables 2. Ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo, prima però titoli di testa. Tornano sul grande schermo i duri di 30 anni di cinema d'azione. Da Sylvester Stallone a Bruce Willis, passando per Van Damme e Arnold Schwarzenegger, protagonisti de I Mercenari 2. E nei cinema italiani sta per abbattersi anche la strampalata gang di Madagascar 3. Questa volta Alex, Melman, Marty e Gloria metteranno a suo quadro l'Europa per cercare di tornare al loro amato zoo di New York. Un film nella foresta amazzonica. Lo ha girato Giorgio Diritti, che dopo Il vento fa il suo giro e L'uomo che verrà, si misura con la grandezza della natura e il suo influsso sugli uomini nel nuovo Vanità, interpretato da Jasmine Trinca, una delle anticipazioni della Rosa Purpurea sulla prossima stagione italiana. A Olimpiadi finite si chiude anche il nostro viaggio nella Londra cinematografica. Terza e ultima tappa dedicata alle zone della capitale britannica rese celebri dal grande schermo, dall'aeroporto di Heathrow a Notting Hill. E prima di tuffarci nelle novità cinematografiche di questa settimana e poi proseguire il nostro viaggio all'interno invece delle novità stagionali, quelle del nuovo cinema italiano che verrà nel prossimo autunno, noi chiudiamo il nostro viaggio a Londra. Le Olimpiadi si sono concluse, Londra ha visto spegnersi i riflettori del mondo, ma intanto quelli non si spengono mai sulla capitale britannica, e noi chiudiamo il nostro viaggio nella Londra cinematografica con Chiara Pizzimenti, che questa volta ci racconta quelle zone, quei quartieri, pensate a Notting Hill per raccontarne uno, che sono stati resi ancora più celebri, possiamo dire, proprio grazie al cinema. Chiara Pizzimenti. Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'aria degli arrivi dell'aeroporto di Heathrow. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Non potevamo partire che dall'aeroporto per la nostra passeggiata cinematografica londinese. Heathrow è citato in Love Actually, film che a Downing Street come primo ministro aveva mandato Hugh Grant. È sempre lui il proprietario di una casa dalla Porta Blu e di una libreria a Notting Hill. Posso aiutarla? No, grazie, do solo uno sguardo. Location per cerimonie? 4 matrimoni e un funerale? Vita da single? About a boy? Sempre Hugh. Rifuggitelo invece se siete brave ragazze. Il diario di Bridget Jones insegna. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM Nostalgia, le canzoni più belle per gli ultra trentenni. Io scelsi la vodka e Chaka Khan. Per un buon libro andate all'84 di Charing Cross Road. Se volete una cupa Londra anni 50, ecco Vivere a Drake. La volete vitale, popolare e contemporanea? La felicità porta fortuna. Sempre Mike Leigh. Per la Swinging London c'è Velvet Goldmine. Se facciamo una corsa indietro negli anni, Wilde e Un marito ideale. Come fai a sopportare la società londinese? Piacere mio. Un cumulo di nullità che parla di nulla. A me piace parlare di nulla, padre. È l'unica cosa di cui so qualcosa. Questo è un paradosso, signorina. Io odio i paradossi. Preferite la città meta di immigrazione? Eccovi la mafia russa della promessa dell'assassino. Tutto ok, capo. Tranquillo, la polizia non troverà niente. Nella mafia russa. Io decido quello che è giusto o sbagliato. Le promesse vanno fatte. Ho accettato. E i segreti vanno mantenuti.

Ma abbiamo provato, nel senso che comunque le consegne e gli obiettivi, anche parlando con i produttori, erano quelli di proseguire con un tipo di film e un prodotto che avesse così le possibilità di essere largo e quindi abbracciare un pubblico abbastanza vasto. E quindi a me ha sempre, non so, era una cosa che mi ha sempre affascinato, quella di affrontare, di provare a portare a Natale una cosa, in questo caso specifico una commedia, che avesse dei toni leggermente differenti da quelli che siamo stati abituati a vedere. E mi sembrava una sfida interessante da fare, perché lì è un campionato, insomma, già mi ritrovo appunto nella Serie A all'improvviso, e quello è un campionato ancora più speciale, più grande, e in più a me fa sorridere, insomma, di fare un film che esca a Natale. È una cosa che mi diverte e così è una sfida che sono contento di fare. Una sfida che ha dei progenitori anche importanti, cioè da Monicelli a Conne Noel, ecco, cioè c'è comunque una vena del cinema europeo che ha raccontato il Natale in maniera così tagliente, diciamo. Cioè, assolutamente, io ti ringrazio dei riferimenti e ripeto, si tratta di provarci. Io ho provato a costruire una storia che avesse delle caratteristiche e che sono principalmente comiche, ma anche in qualche maniera romantiche, e soprattutto cose che così per gusto mio, cose che stanno a cuore a me, che avesse una nota surreale e in qualche maniera favolistica. Ed è uscito tutto quanto. Io ho finito di montare appunto da 5 giorni più o meno, e quindi sono riuscito a vedere tutto il film insieme più e più volte, ed è uscita esattamente questo. È una favola che fa molto ridere, che ha dei momenti così emozionanti, e tutto condito dalla neve che cade dal cielo, per cui sono, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista narrativo che interpretativo, sono assolutamente soddisfatto, sì. Come si seguono, se si seguono, oppure se si cerca di dimenticarle, le regole di un buon sequel? Bah, cercando di, insomma, ci sono degli ingredienti che sono imprescindibili. In primis sono gli attori, che li ritrovi. Io ho cercato di mettere più elementi nuovi possibile, per cui trovare una location che fosse totalmente nuova e anche così eccentrica, inaspettata, come poteva essere quella di trovare un castello che ha una forma davvero disneyana in qualche maniera, e si chiama Castel Savoia, sta a Gressonei, ed era poi per magia la residenza estiva della regina Margherita, che è poi il nome della protagonista, interpretata da Cristiana Capotondi. Per me era fondamentale fare un film nuovo, sia per una questione di stimoli miei, per cui trovarmi appunto non nella stessa, già c'era tutta la stessa gente, per cui nel trovarmi a dover raccontare più o meno la stessa storia, ma provare a raccontarne una che fosse differente. Per cui, come sempre, sono partito dai personaggi. Alcuni li avevo già disegnati insieme a Fabio appunto l'anno scorso, e alcuni erano nuovi, e con questi nuovi personaggi ho provato a inserire lì la novità, per cui a fare al personaggio che interpreta Diego Botantuono, che si chiama Alberto Caccia, a dargli come questa caratteristica. Lui di fatto è scampato a una grave malattia e per cui è totalmente entusiasta della vita e di qualsiasi cosa che gli succeda, no? Ed è entusiasta anche di questo personaggio che viene, in qualche maniera gli devasta il castello, gli devasta anche la vita. Diego, il personaggio di Alberto, a un certo punto tutti pensano sia morto perché appunto per un malinteso scatenato sempre da Paolo, il personaggio interpretato da Fabio De Luigi, si ritrova per la seconda volta a scampare in qualche maniera alla morte, e troviamo il suo castello invaso da persone che erano convinte lui fosse morto, per cui la vigilia di Natale si trasforma, una finta veglia funebre si trasforma di fatto in una festa di Natale molto molto molto divertente, e sta lì, sta nello stupirsi da solo, per cui mettendo degli elementi che poi ti obbligano ad inventarne degli altri, e in quella maniera non fai lo stesso film ma ne fai un altro, credo, poi non lo so. Ecco, com'è stata l'evoluzione dei personaggi rispetto al primo film? Di solito nel secondo, insomma, i personaggi un po' vengono anche un po', diciamo, approfonditi, ecco, come caratteristiche. Ma qui c'è stata più che altro la, come dire, la distribuzione della, così, della parte comica, che l'anno scorso era principalmente, poi non solo, però principalmente affidata a Fabio e anche ad Alessandro Siani, però era molto sulle sue spalle tutta la parte comica del film. Quest'anno è stata distribuita a più o meno tutti, per cui ogni personaggio ha una caratteristica, e questa è abbastanza una caratteristica dei personaggi che scrivo, ma a partire davvero da un maggiordomo che compare all'improvviso ogni volta che lo si chiama, e che non si sa da dove venga, perché forse appunto Alberto Caccia, interpretato da Diego Abatantuono, l'ha assunto ma non se ne ricorda perché ha queste amnesie causate dalla malattia che ha avuto. E poi, non lo so, diventano amici, no? Così come lo sono stati per me, sia con la penna che poi con la macchina da presa. Spero che questo avvenga anche per il pubblico. In qualche maniera li conosciamo, sono nostri amici, sappiamo, è come invitare uno che fa disastri o uno molto antipatico a casa, sai che sarà così, no? Si tratta di vedere come interagirà con chi non conosce, con chi noi non conosciamo, e quindi l'ingrediente era quello: mettergli intorno delle persone, mettere intorno a quel gruppo di persone che conoscevamo, mettergli intorno delle persone nuove, che sia loro che noi non conosciamo, e vedere che cosa succede. Okay. Grazie a voi. Grazie. E questo era Alessandro Genovesi. Il peggior Natale della mia vita uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 novembre. Cambiamo personaggio, cambiamo ospite, non cambiamo clima, perché rimaniamo in un clima di commedia, con il nuovo film che vede come protagonista, qui parliamo stavolta con un attore, Dario Bandiera. Dario Bandiera, uno dei volti che si sono imposti, lo ricorderete anche nel suo ruolo nel penultimo film di Carlo Verdone. E Dario Bandiera è il protagonista di All'ultima spiaggia di Gianluca Ansanelli. Un tema interessante quello che è al centro di questo film, sembra uno dei temi su cui il cinema italiano in questa stagione rifletterà, perché dopo il reality di Matteo Garrone, in chiave ovviamente d'autore assolutamente sferzante, visto anche al Festival di Cannes, anche in questo caso, anche in questo All'ultima spiaggia, sarà un reality il tema del film, almeno l'ambiente, lo sfondo su cui i personaggi si muoveranno. Per rinnovare il mondo dei reality, una rete televisiva ne mette in cantiere uno chiamato proprio L'ultima spiaggia, come il film, in cui i concorrenti davvero non devono avere nulla da perdere. E allora sentiamo qualche notizia in più su questo film da Dario Bandiera. Allora, Dario Bandiera. Allora, non mi fare domande difficili. No, guarda, sono facilissime. Te lo dico subito perché non so niente del film. Non c'ero quando l'abbiamo girato. Parliamo d'altro. No, però mi incuriosiva una cosa. Sembra l'anno dei reality, nel senso che versione, diciamo, virgolette, seria, ci ha pensato Garrone a Cannes, versione commedia, ci pensate voi con un film corale, ma in questo caso deve essere per forza corale, perché immagino voi siate tutti concorrenti di un reality. No, in realtà, dunque, sembra così, no? In realtà il reality è soltanto, diciamo, il tema, il filo conduttore che lega gli episodi, perché l'episodio nostro, che è il primo, dove siamo io, Nicole Grimaudo e Paola Minaccioni, praticamente un episodio su gay, coppia gay non sarebbe la mia questa volta, ma quella delle due donne, Nicole Grimaudo con Paola Minaccioni, decidono di avere un figlio e si rivolgono all'ex di Nicole, che sarei io, e da lì nascono tutta una serie di situazioni. In realtà, metterci il minimo indispensabile. Esatto. No, in realtà quindi la cosa del reality è soltanto, credo no, la cosa che lega, la scusa per legare gli episodi, via, chiamiamola così, insomma. Però è il filo conduttore del film, ecco. Poi ogni episodio parla di qualcosa. Poi gli altri io li ho letti ma non li ho visti. Ho visto il mio, che è il più bello di tutti, non di questo film soltanto, ma di tutti i film, bravo, italiano e non, anche sì, europeo, e addirittura qualcuno dice anche mondiale. Poi io direi troppo, insomma, mondiale mi sembra un po'. Senti, come ti sei trovato in qua, allora, in questa parte? Perché anche questa, comunque, che tu hai raccontato, sfiora un tema di grande attualità e anche, come dire, cioè, controverso, no? Di quale si discute, che riesce in Italia, riesce ancora a far polemica sto tema. Ecco, tu come? Quello sempre, in Italia fa polemica qualunque cosa. Basta, è la cosa, la Chiesa ha detto, quindi c'è polemica in ogni cosa, anche se poi è stato affrontato mille volte questo tema nei film, quindi ogni volta. No, ma io, a parte che io faccio la parte non del gay, quindi dovresti chiederlo più a Nicole come si è trovata nella parte della gay essa, insomma. No, però guarda, ti dico, è molto divertente, perché da lì nascono mille gag. Poi Nicole, Paola Minaccioni, che è bravissima, tra l'altro credo sia stata anche candidata al Nastro d'Argento quest'anno, e Nicole è un'ottima spalla comica, credibilissima, bella, brava, insomma, un episodio divertentissimo proprio. Senti, ritorno al reality per chiederti un po' il tuo parere personale, perché facevo questa riflessione, cioè il cinema italiano sta raccontando uno spaccato del nostro paese attraverso questa lente di ingrandimento che sono stati appunto i reality, proprio nel momento in cui il formato dei reality, format vero e proprio, sembra avere perso efficacia, cioè da qualche anno vediamo che insomma Grande Fratello è quello che è, ma anche gli altri tutto sommato, no? E poi non c'è proprio più ricerca e investimento su quel format ma lì. Finalmente, perché così tardi era nella mia idea, no? Cioè, il cinema se n'è accorto, ne parla, lo usa così come lente di ingrandimento quando è in declino, non quando perché è... il cinema in realtà è reality, ha sempre snobbato i reality, cioè ha fatto finta un po' che non esiste, cioè è come parlare dei reality è come parlare del, non lo so, della feccia, non lo so, cioè, in realtà poi adesso invece li usa, il cinema li sta un po' usando, perché poi il cinema che deve fare, una volta che hai raccontato tutto, bisogna, intanto si, nei film si racconta della vita di tutti i giorni, insomma di quello, quindi alla fine uno dei primi fu, vabbè, in America The Truman Show, che affrontò questo discorso. In realtà il cinema italiano, io dico, finalmente sono finiti, cioè, a parte che i reality sono quelli che hanno un po' rovinato un po' tutto nel mondo dello spettacolo, perché ormai quei reality tutti i protagonisti, tutti vogliono essere, se lo fa lui lo faccio, tutti che partono dai reality poi vogliono fare gli attori, anche vogliono al bar fare... poi diventa così, sì, esatto, è diventato proprio, vabbè, giustamente una volta che si è raccontato tutto, poi che cosa si quindi reality alla fine, ma non so se hai visto nelle TV, diciamo su Sky, su canali così, ci sono reality su qualunque cosa, c'è la pasticceria, le cose, c'è gli abiti da sposa, una cosa allucinante, reality su qualunque cosa, quindi, ma finirà anche quello prima o poi, insomma, si tornerà poi come a prima, ognuno col suo lavoro, ecco. grazie Era Dario Bandiera, protagonista di All'ultima spiaggia. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo per parlare di un altro film, anzi di altri due film che stanno per arrivare nei cinema italiani. Sempre nel corso della prossima stagione sarà con noi Giorgio Diritti per parlarci del suo nuovo progetto, Vanità. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, noi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta del cinema che verrà nella prossima stagione cinematografica, da settembre in poi, autunno del cinema italiano, fatto di commedie, come abbiamo sentito, ma anche dei nostri autori, che poi sono una faccia della medaglia sempre molto importante del nostro cinema. Giorgio Diritti è uno dei registi che negli ultimi anni più si è imposto in questa sorta di categoria, se vogliamo. Lo ha fatto grazie a un film che è stato un successo di passaparola, come Il vento fa il suo giro, da cui è scaturito un altro successo di critica importante come L'uomo che verrà, dedicato in qualche modo alla strage di Marzabotto, e adesso va ad ambientare il suo nuovo film che ha finito di girare, che si intitola provvisoriamente Vanità, anche qui è un titolo di lavorazione, in questa fase i distributori e i produttori stanno ancora cercando di capire bene qual è il titolo migliore per accompagnare i propri film. Dicevamo, questo Vanità girato interamente nella foresta amazzonica, quindi anche con, come dire, un'esperienza nel girare il film di quelle che chiaramente possono e devono probabilmente cambiarti, e così è stato, come sentiremo nel racconto del regista Giorgio Diritti e della protagonista del film, la protagonista femminile Jasmine Trinca. La prima cosa è proprio raccontare questo tuo nuovo lavoro, Giorgio, che dopo un percorso che ti ha visto da film caso a film atteso, dove ti sposti con questo nuovo lavoro? Ma mi sposto dove sento naturale andare a curiosare e raccontare le cose della vita, perché è così, cioè forse la mia cifra è un po' quella di essere figlio delle mie sensazioni interiori, e in queste ho colto o colgo comunque un senso di fatica, non solo mia ma in generale direi un po' negli uomini, e di dispersione, con la voglia di cambiare, di trovare qualcosa. Quindi l'idea di questo film nasce da un senso di ricerca, di una voglia di capire e riappropriarsi su quelle che sono le cose che contano veramente nella vita. E in questo la dimensione del viaggio, dello staccare dall'Italia, dell'andare dall'altra parte del mondo in Amazzonia, proprio perché cos'è l'Amazzonia, è un'occasione preziosa. Ecco, proprio questo fatto dello staccarsi, del vedere le cose diversamente quando sei molto lontano. Ricordo Marco Bechis qualche anno fa, anche lui, no, da quelle parti. C'è bisogno di mettere di mezzo un oceano, voglio dire. Cioè, cos'è che porta a essere, forse a riflettere meglio sul proprio paese stando così lontani? Credo che la riflessione, cioè lo sguardo da fuori, diciamo meglio, è importante, lo puoi fare anche qui. Cioè, non è detto in assoluto che si debba andare all'altra parte del mondo. Però certe sensazioni di rapporto con la natura in questa storia hanno un valore importante, perché il percorso che faccio poi alla fine ci stuzzica su cose toste, tipo il senso della vita, il perché succede qualcosa che può essere definito bene o qualcosa che può essere definito male, la spiritualità, Dio esiste, non esiste, c'è, non c'è, insomma sono tutte domande che nella routine lasciamo indietro e che magari con uno stacco ritornano a galla e ci aiutano, spero, almeno questo è un po' il senso del film, a ritrovare appunto lo sguardo, cioè la capacità di essere noi a guardare noi stessi e a trovare un senso di soddisfazione. E preparare un film e lavorare in situazioni così estreme, o immagino così diverse, insomma, da quelle che si è soliti trovare qui, come sta? Ovvio dire faticosissimo, impegnativo, però bellissimo dal punto di vista proprio delle emozioni, delle persone incontrate, cioè questo film è stato girato in posti incantevoli, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche nel centro di Manaus, in una comunità che vive in una palafitta con cui abbiamo condiviso veramente la vita per più di un mese, e molti degli attori arrivano da lì, quindi è stata un'esperienza complicata, difficile, però altrettanto ricca. Jasmine? Beh, riassume bene la parola viaggio, tutto quello che abbiamo vissuto, e dalla preparazione anche di questo film. Poi Giorgio aveva già avuto un incontro con questo posto e invece io sono arrivata, come dire, proprio senza sapere cosa ci sarebbe stato, e devo dire, questo non grazie a me, però l'integrazione è stata straordinaria. Già nella prima fase di lavorazione del film siamo stati nell'Alto Rio Negro, in un villaggio Sateremawe, lavorando con degli indios, e c'è stata un'accoglienza, diciamo, inimmaginabile, insomma, quasi incomprensibile a noi che veniamo anche da un posto dove le persone sono piuttosto aperte, no? Una generosità, una condivisione di tutto, che è proseguita in maniera straordinaria in palafitta, in città, quindi proprio con questa comunità con cui noi siamo ancora in contatto, e adesso c'è stata una piena del fiume molto importante, noi siamo stati, diciamo, in qualche modo insieme nell'aiutare questo gruppo, no, di moradores della palafitta di Manaus. E poi c'è stato, insomma, un impatto con la natura madre che è difficilmente descrivibile, perché poi le immagini rendono bene un aspetto che è un aspetto esteriore, ma ad esempio l'aspetto dell'energia di quel posto io spero che in qualche modo passerà, però tra l'altro una cosa che mi ha colpito moltissimo la prima volta che sono stata sul fiume è che quando le barche spengono i motori rimane un silenzio, che non è un silenzio a noi cioè leggibile, qualcosa di oltre, che riguarda veramente la natura, la forza, l'energia della terra. E questo nonostante gli animali, nonostante la natura che ci parla, però quindi un'esperienza completa, differente, difficilmente replicabile e conservata per sempre nel mio cuore. Il cinema di Giorgio Diritti è stato sempre legato fortemente ai linguaggi dei propri protagonisti. Il vento fa sul giro giocava quasi con i sapori, con i profumi dell'Occitania. Dall'altra parte il vento fa il suo giro era tutto in dialetto emiliano dei colli bolognesi. Ecco, anche in questo caso andare a girare con gli indios in Amazzonia ha significato probabilmente relazionarsi in maniera forte a questo elemento, l'elemento linguistico. Diciamo che siamo in linea, nel senso che ho scelto comunque di conservare gli idiomi del posto, quindi le persone parleranno portoghese e brasiliano. Parte del film è anche in Italia, nel Trentino, e ovviamente si parla in italiano. Augusta, la protagonista, assieme all'altra persona che è in viaggio con lei, parla italiano. Insomma, c'è sempre un multilinguismo, si vede che per me è una cifra, come dire, ormai caratteristica del lavoro, ma che credo abbia appunto e dia un senso anche di verità, di autenticità alle cose che faccio. Jasmine si è studiata il portoghese con attenzione per parlare. E allora interroghiamo in portoghese. Si faceva capire però lei. Sì, molto bene. C'è una, insomma, e c'è rimasta la saudade, che è la parola forse una delle più conosciute. Che non va mai via, esatto. Che non va mai via. È attaccata dentro. Sì, che è diversa. È una cosa struggente di sensazione. Cioè, prima Jasmine parlava di questa sensazione sul rapporto dell'energia del luogo, e quella è la cosa che ti rimane lì. E di cui senti dipendenza. Ecco, io non sono mai stato in Africa, ma alcuni mi dicono del mal d'Africa, stessa cosa, no? Forse perché siamo biologicamente lì, cioè noi ci siamo evoluti, ma noi arriviamo da lì, quindi quando risentiamo quell'odore lì, quel silenzio lì, quell'acqua lì, quelle cose lì, eccetera, ritroviamo la nostra, diciamo, il nostro equilibrio, sì, ancestrale, qualcosa di interiore profondo. Quindi anche un film si trasforma, cioè quindi il luogo trasforma anche il film un po'? Tantissimo, io poi ho questo vizio che in relazione alle cose, secondo quello che mi danno, cambio anche la storia, cioè comunque la interpreto, la vedo e la sento, e quindi ci sono suggestioni. Per gli attori, immagino. Sì, ma spesso sì, perché poi semplifico le cose magari. Certe volte le cose che vedi e incontri sono più autentiche e quindi più facile di capire di cose che magari scrivi, che sono appunto letterarie, che rischiano di essere un po' così pretenziose, ecco. Erano Giorgio Diritti e Jasmine Trinca, regista e protagonista di questo film. Davvero siamo molto curiosi di vederlo, di vedere cosa è venuto fuori da questo film interamente girato nella foresta amazzonica da Giorgio Diritti. Ancora una volta cambiamento di clima, così è il cinema, vario e variopinto, e noi torniamo a un Côté di commedia, anche se di commedia questa volta anche con un filo di amaro. E la recita, la porta sullo schermo come protagonista un nome, un volto famosissimo del cinema, ma soprattutto della televisione, come quello di Enrico Brignano. Stiamo parlando di Ci vediamo domani, di Andrea Zaccariello, un film che ride, sorride, fa ridere, questo lo vedremo chiaramente quando il film sarà pronto, ma insomma che vuole far ridere, riflettendo però su un tema che è il tema della morte, il tema del trapasso, un paese dove nessuno muore, dove sono molti gli ultranovantenni, e allora cosa viene in mente al protagonista di questo film? Perché non aprire un'agenzia funebre, ma forse la risposta è proprio nel fatto che lì nessuno muore, e qui verranno fuori tutti gli equivoci e tutti gli ingredienti di questa commedia di cui ci parla Enrico Brignano. Raccontaci un po' questo lavoro. Allora, questo lavoro è ancora in procinto di essere finito, insomma. Abbiamo appena completato le riprese, manca qualche piccola inquadratura che faremo più in là, forse a Panama. E poi c'è tutto il lavoro di post-produzione, quindi il montaggio delle scene e tutto il resto. È un viaggio, se mi è concesso, di 40 giorni, un viaggio apparentemente lungo, attraverso tutto l'arcobaleno dei sentimenti, insomma. È una commedia che tocca cose abbastanza profonde, la morte di una nonna, questo è quello che gli capita a Marcello Santilli fra le cose, fra le tante cose, perde un ristorante, perde dei soldi, è uno che ha un sogno nel cassetto, quello di diventare ricco, che è un sogno un po' che hanno tutti, non avendo un'arte ben precisa non ne ha affatto. E quindi è uno che tenta di vincere grattando, quindi il famoso gratta e vinci, che sembra una religione, è uno sport più che altro degli ultimi tempi, insomma, credo che l'erario abbia degli introiti pazzeschi, da ecco perché i nostri ministri riescono a prendere questi stipendi solo dalle tasse, dall'IMU e dal gratta e vinci. E costui è proprio vittima di questa serie di cose, di un ideale sbagliato, credo. Due matrimoni falliti alle spalle, uno sicuramente perché è divorziato, l'altro è quasi alla completa perdita della moglie perché va con un altro, addirittura la moglie si mette insomma è una storia, adesso non ve la sto a spiegare perché è abbastanza complicata, però la cosa semplice invece è che costui decide suo malgrado di perché crede di avere un'idea, di aprire un'agenzia di pompe funebri in un paesino di ottuagenari, cioè di tutti 107 vecchi, e lui dice, pensa, chiaramente questi sono soldi facili, questa è una gelata, una pioggia, una grandine, muoiono tutti, invece c'è un motivo per il quale costoro non muoiono, e quindi purtroppo lui lo scoprirà a sue spese, io invece Enrico Brignano ho scoperto a mie spese che cosa invece può significare l'avere una famiglia, insomma il valore più alto, che poi credo siamo la nazione con vecchie tradizioni, e noi non sappiamo il valore delle vecchie tradizioni. Le vecchie tradizioni sono un aggancio fondamentale, la famiglia, i figli, perché diventare anziani credo che sia sia difficilissimo, e quindi avere sul set tutti i giorni almeno una quarantina di anziani che hanno uno scopo, no? Perché con le pensioni minime che danno, insomma, lo scopo, non ce ne sono poi tanti scopi, specialmente quando i nipoti o i figli magari si allontanano. Invece costoro venivano sul set cercando di fare una cosa per la quale non sono nati per fare questo. Quindi si sono trovati a recitare in questo film, e devo dire, diretti egregiamente da Andrea Zaccariello, che è il regista, sono stati talmente bravi da essere alcune volte anche commoventi, per cui in una commedia dove c'è anche un piccolo segno di commozione, credo che sia operazione riuscita. Non c'è cosa migliore per l'animo umano avere parametri di questo tipo, che siano legati al sentimento, e quindi ecco, ben venga la risata, ma insomma, quando poi la risata tocca il cuore è un bingo. Quando dovrebbe uscire il film? Credo il prossimo autunno, quindi intorno a ottobre-novembre, fine novembre penso, questa è, diciamo, almeno attraverso la Moviemax, la notizia certa. Ecco, dalla trama si può dire che è una specie di fiaba neorealista, un po' una favola? Ah, sicuramente tocca dei temi che sono attuali, quindi la morte è sempre attuale, ma la morte viene quasi non osannata, ma sicuramente, cioè, il titolo è un titolo ben pensato, ci vediamo domani, è quasi un senso di sicurezza, di immortalità, cioè per oggi non se ne parla di morire, noi ci vediamo domani, ci vediamo domani, punto, senza dare né spazio né tempo. Ci vediamo domani, è di buon auspicio, e credo che insomma sia un piccolo racconto, una storia, non so se può essere considerata una fiaba, quantomeno un percorso, un viaggio forse nell'animo umano, insomma, no? a scoprire altre cose di noi stessi. Perché l'incontro con gli anziani, insomma, cambia un po' le prospettive. Guarda, chi conosce gli anziani, chi ne ha a casa, chi ha un nonno, una nonna, uno zio, una zia che invecchiano, dovrebbe guardare sempre loro, perché attraverso, anche solo guardarli, si cresce mentalmente e profondamente. In un paese, insomma, crescita zero, sono la nostra memoria, e la memoria è il futuro, quindi gli anziani sono il futuro. Ho scoperto questo. Grazie. Enrico Brignano, La Rosa Purpurea, per parlare di Ci vediamo domani, un altro dei film che popoleranno la stagione cinematografica 2012-2013 in Italia. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha assistito in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia. Appuntamento la prossima settimana, il prossimo weekend presenteremo la mostra del cinema di Venezia che starà per partire, e continueremo anche il nostro viaggio nel cinema che verrà sulla prossima stagione italiana. Un saluto da Franco D'Assisi.